This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy, yeah, yeah, yeah. I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose c'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissioni appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it, anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così, la mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi, purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona i grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali, anche le TV locali, oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2, venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via, e questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la Rai non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema, del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederinda Bolkan, che spesso era ospite appunto del Cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui, e attraverso il Cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosi Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il Cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il Cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai c'è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però venivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca, e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. Italy, yeah, I love Italy, the Nandi Mountain. Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy.